Va bene, incominciamo. Innanzitutto un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla costruzione di questa giornata e a tutti i presenti. Purtroppo non si può accendere la mandata dell'aria fredda perché Stanley dice che il rumore dell'impianto entrerebbe nella registrazione e quindi c'è da soffrire un poco. Due parole di spiega. La costruzione di questa giornata è avvenuta nel corso del tempo con un imbricarsi di contributi successivamente apparsi come possibile. All'inizio c'è stato un contatto con Elvio, procurato da Cucciolo. Con lui e con altri due compagni abbiamo fatto delle registrazioni sull'esperienza dei circoli del proletariato giovanile e parlando è emerso che Elvio è un grande appassionato e conoscitore della comune, per cui ci ha detto: ma perché non facciamo una cosa sulla comune? Poi è passato un po' di tempo, ci si è ribeccati. Nel frattempo il coro I Disertori, che già qui aveva presentato quel suo bel lavoro sulla diserzione di guerra, ha iniziato a lavorare sulle canzoni della comune e quindi si è aggiunto quest'altro pezzo. Claudio Piccoli aveva svolto una sua ricerca sugli italiani che avevano partecipato alla Comune di Parigi, quindi verrà presentato un contributo al riguardo. Selva Varengo ha pubblicato questo libro su Louis Michel e quindi parlerà della figura e dell'attività di questa compagna. Quindi l'ordine dei lavori grosso modo è questo: Elvio all'inizio presenterà quella che abbiamo chiamato una psicogeografia della Parigi di allora, quindi i luoghi della Parigi a cavallo tra l'impero di Napoleone il Piccolo e la Comune di Parigi, e concluderà questa parte con corredo iconografico e tutto quanto può servire. Concluderà questa sua esposizione con alcuni profili sintetici di Comunardi. A lui seguirà Selva con un approfondimento su Louis Michel, come ho detto, e Claudio sugli italiani che parteciparono e collaborarono e contribuirono alla Comune di Parigi. Finita questa parte di parola, il coro canterà alcune canzoni della Comune sulle quali ha lungamente provato nei mesi passati. C'è già stata una prima edizione di questo loro lavoro allo ZAM, non abbiamo l'esclusiva questa volta, però va bene lo stesso. E dopodiché si mangia e mangeremo in cortile. Dobbiamo stare al chiuso perché ci sono da proiettare delle immagini, quindi fuori la luce non lo consentirebbe. E dopo cena chi vuole rientra per guardare alcuni materiali filmati sulla Comune di Parigi. Abbiamo pensato di proiettare un nuovo lavoro, un film animato, I dannati della Comune si intitola, ma non è stato possibile sottotitolarlo in tempo. Quindi daremo altre due cose comunque interessanti. Un cortometraggio di Armand Guerra del 1914, sul quale vi diremo qualche cosa, e un film sovietico del 29. Poi decidiamo insieme se si vuole vedere I dannati della Comune senza i sottotitoli. In realtà si capisce abbastanza, c'è un certo commento parlato che è poi il testo di una memoria autobiografica di una comunale del tempo. Insomma, ci direte voi se Se volete che lo si guardi questa sera, oppure se preferite aspettare un'edizione italiana vera e propria, che comunque faremo. È che in questi ultimi giorni si è stati belli presi e non siamo riusciti a concludere il lavoro necessario. Prima della visione di film è prevista un'altra parte di parola abbastanza breve ma significativa, sulle esperienze di trasformazione della vita quotidiana durante l'esistenza della comune. È uscito di recente un bel libro che in italiano è stato reso col titolo Lusso Comune, sarebbe Lusso della Comune o Lusso Comunardo, una ricerca che è dedicata al rapporto tra arte, quindi l'attività della Federazione degli Artisti di Parigi di quei mesi, l'artigianato, il lavoro creativo e la produzione del bello come produzione di una vita bella, quindi delle esperienze estremamente significative e ricche sulle quali finora l'attenzione non si è soffermata come avrebbe dovuto, e adesso sta emergendo tutto quel riempimento della vita che si era realizzato in quelle settimane, in quei mesi, nel mentre si cercava di difendere l'esistenza fisica della comune dall'assalto dei bersagliesi. Ecco, questo è un po' il programma della giornata. Direi che Elvio può iniziare e poi andiamo in sequenza. Vieni. Okay. Allora, il film sovietico è la grande Babilonia. Sì. Il Armando Guerra è un mito, sai, no? Sì. Poi presento una breve scheda biografica perché... Nella guerra di Spagna ne ha fatte di ogni. Allora, io devo riuscire a guardare un po' lì. Vista la variazione del film, cioè il fatto che non ci sarà i dannati della comune, che i dannati della comune racconta in pratica la comune giorno per giorno, utilizzando delle stampe dell'epoca, tratte dai libri dell'epoca, che sono state animate. Pensavo di ridurre i ritratti di Comunardi e di fare magari adesso nel primo intervento un breve racconto anche delle degli appelli piuttosto che delle leggi votate dalla comune, cioè per inquadrare un po' meglio l'aspetto. Intanto la comune per molto tempo, soprattutto da noi in Italia, è stata considerata in modo molto riduttivo, no? Ed è stata considerata anche con una certa, diciamo, manipolazione, no? che arrivava soprattutto da ambienti vicini allo stalinismo, che hanno gestito per molto tempo l'archivio Marx, ad esempio, che hanno gestito la storia cosiddetta ufficiale del movimento operaio. La comune si inserisce all'interno di un fenomeno che ci riguarda molto oggi, cioè ci riguarda molto, e vedrete quanti tratti che riguardano la nostra vita ritroviamo nella Parigi di quegli anni, perché in quegli anni a Parigi c'è un cambiamento totale del modo di vita della città, cioè cambia il rapporto tra la popolazione di Parigi e lo spazio pubblico, ad esempio. Cambia il rapporto tra composizione della popolazione e quartieri di Parigi. Che cosa succede in sintesi? Qui vedete che iniziamo con una tabella demografica. Se guardi, questo si può staccare? Allora faccio come un talk show, mi sposto. Allora, se guardiamo questo grafico qui, che è un grafico che mostra la popolazione di Parigi nel corso degli anni, vediamo che ad un certo punto c'è un salto, c'è un vuoto. Questo vuoto riguarda il 1860, perché nel 1860 a Parigi si decide di estendere la città. Quindi la città aumenta di quasi due terzi. Ingloba tutta la periferia, che era campagna, vedete quell'area grigia che vediamo attorno a quell'area rossa, L'area rossa che viene suddivisa, cioè la città, sia l'area rossa sia questi nuovi quartieri inglobati, viene suddivisa in municipalità, come da noi adesso a Milano, se sono loro che l'inventano, gli arrondissements. Cioè ogni municipalità ha un suo sindaco. Parigi invece, questa è una cosa molto importante quando si pensa alla comune, quando si parla della comune, intanto la comune di Parigi vuol dire semplicemente il comune di Parigi, penso che lo sappiate un po' tutti, cioè, non ha una connotazione politica come in alcuni casi si pensa, no? La comune di Renudo, la comune di Parigi, la comune, no? Il comune di Parigi. Il comune di Parigi aveva una particolarità, che non aveva sindaco. Il comune di Parigi è rimasto senza sindaco fino agli anni 70, perché dipendeva direttamente dallo Stato centrale. Quindi esistevano i sindaci delle municipalità, non esisteva un sindaco della città. Il sindaco della città è esistito per breve tempo solo durante la Grande Rivoluzione del 1789. E quello che la Comune di Parigi rimobilita è proprio l'immaginario del 1789, quando si parla di comune, quando si parla ad esempio della Guardia Nazionale, che è un'istituzione che nasce proprio durante la Grande Rivoluzione, eccetera, eccetera. Qui vediamo due vignette satiriche dell'epoca. In alto, quella signora con il gonnellone Parigi, che si estende e sta cacciando via tutti i comuni delle periferie, no? Prende lo spazio delle periferie. In basso sono evidentemente due contadini che non se la passano tanto bene, che guardando lontano, no, tutti soddisfatti, dicono: ma allora diventeremo anche noi parigini, no? Quindi già si coglie un elemento importante, questa estensione della città, che è anche estensione di un immaginario, di quello che oggi chiamiamo gentrificazione in sostanza. Allora, la superficie di Parigi passa da 34 km quadrati e mezzo, nel 1861 diventa 105 km quadrati. E c'è ovviamente una crescita di popolazione, un aumento della popolazione. La popolazione di Parigi nel 1872, cioè l'anno dopo della Comune, vediamo che è concentrata soprattutto in questa zona qui, che è una zona centrale attorno, diciamo, a Bastiglia, qui c'era Piazza della Bastiglia, e la zona più o meno vicino a dove c'è il Comune, l'Hôtel de Ville. Mentre in alcune aree periferiche, poi vedremo meglio su un'altra cartina, la popolazione, la densità di popolazione è molto bassa. Vediamo se riesco. Ecco, qui vediamo i due cambiamenti che vengono previsti da questo piano, no? Sono uno, la divisione in arrondissement, lo vediamo con i vari colori, no? Due, l'istituzione di una serie di grandi strade, enormi viali che attraversano la città. L'istituzione dei grandi viali si sa che è in relazione anche con un problema di ordine pubblico, siccome a Parigi 1789, 1830, 1848, cioè ogni tanto scoppia una rivoluzione, si scopre che forse è meglio avere dei grandi viali dove è difficile piazzare delle barricate, dove l'esercito può intervenire anche con le cannonate. Quindi c'è già un motivo di ordine pubblico. In secondo luogo c'è il problema di accelerare la vita della città, no? E quindi vengono costruiti dei grandissimi viali che attraversano a spicchi, no, questa. Allora, il punto è questo. Per fare questa cosa, e qui è solo un pezzettino del cambiamento della forma di città di quegli anni, poi è molto più variegato e complesso, ovviamente c'è bisogno di un po' di cose. Prima di tutto c'è bisogno di muratori che demoliscono le case esistenti per fare spazio ai viali, no? Ed ecco che compare a Parigi una nuova figura, che sono proprio i demolitori. Si parla di migliaia di demolitori che arrivano dall'esterno della città, immigrati a Parigi, pagati alla giornata, che spesso vivono in stanzoni comuni, dormono in stanzoni comuni nelle periferie, e che in sostanza la consolazione, diciamo, più vicina che hanno nella loro vita è il consumo di vino, no? A Parigi c'è un consumo altissimo di vino in quegli anni, come si nota anche da certe immagini. Ma soprattutto, queste qui in immagine un po' più tarda, cioè tutta la città viene ribaltata, vedete? Cioè macerie, distruzioni che avanzano. Vado avanti. Ed ecco qua la traccia di Boulevard. È uno dei nuovi centri della città, vedete quella forma a stella ripresa dall'alto, è l'Arco di Trionfo, no? Champs-Élysées. Champs-Élysées è la zona dove iniziano a stabilirsi i nuovi quartieri ricchi, perché in parallelo i quartieri, chiamiamoli quelli più operai, più poveri, vengono spostati dall'altro lato della città, cioè si forma una specie di mezzaluna, poi vedremo attorno a che cosa, che disegna proprio la concentrazione di popolazione operaia a Parigi. Questo progetto su Parigi è andato avanti e va ancora avanti, cioè forse in parte per certi aspetti legati all'ecologia, forse è giusto la giunta Hidalgo, l'ultima sindaco di Parigi, ha cambiato un po' rotta. Ma l'idea di continuare questo tipo di progettualità con i grandi boulevard è uno dei motivi d'orgoglio della Parigi di oggi, ancora, no? Allora, guardate, questi qui sono dei palazzoni della Défense, no? Un progetto degli anni 70-80, no? La costruzione all'esterno della città di un grande quartiere dedicato al terziario e alla dirigenza, diciamo, terziaria della città. Ma guarda, così almeno mi... Ecco qua. Questo qui è il Grand Arche. È un grande arco che risponde idealmente all'Arco di Trionfo, che è il simbolo della Parigi napoleonica, l'Arco di Trionfo. Questo è il simbolo invece della Parigi di oggi. Il Grand Arche, il grande arco. Ok? Che è un edificio altissimo, enorme, è tutto un grattacielo. Cioè non è un monumento, dentro ci si lavora. Ecco, questo è il Grand Arche ripreso dal basso. Questi quadratini sono tutte finestre di uffici. Cioè immaginate che cosa pazzesca non è. Ma soprattutto, e qui si capisce quanto il disegno di oggi sia la continuazione di quel disegno lì, questa fotografia è scattata stando al centro del Grand Arche e guardando verso la città. Vedete che è in linea diretta con l'Arco di Trionfo, è la continuazione degli Champs-Élysées. Cioè, è stata progettata con l'idea di essere... i francesi, i parigini sono molto attenti a questa cosa, no? Alla continuità storica e progettuale. Ed ecco che siamo su un unico asse portante. Arco di Trionfo che, sapete tutti, la valenza simbolica che ha, eccetera. Ma ovviamente questo implica una cosa, questo progetto di trasformazione di Parigi. Per una nuova Parigi che nasce c'è una vecchia Parigi che muore. Cioè queste erano le strade di Parigi nel momento in cui viene attuato il piano del barone Haussmann, prefetto di Parigi, che è questo piano di costruzione della nuova città. La vecchia Parigi era prevalentemente una città medievale. No, è vero, era insana, era insalubre. No, però qui siamo nel pieno centro e vediamo... Cioè, questi qui erano quartieri di vita popolare, no? che ribollivano di vita popolare. Questo signore che vediamo in questa caricatura, questa è una riflessione interessante, un po' disperato, che si dispiace, con una piuma in mano, è Victor Hugo. Victor Hugo, avete in mente Smeralda, Notre Dame de Paris, tutti, no? Il suo immaginario legato al Medioevo, Victor Hugo, è innamorato di Medioevo. Guardate, questo è sempre uno degli aspetti della demolizione di Parigi, no? Vedete queste... C'è una considerazione, anche a scuola, quando si studia, si accenna a Victor Hugo, si dice il romanticismo ama il Medioevo, si torna al Medioevo. Non è semplicemente questo. Lui stava vedendo la trasformazione di una città. E quando lui scrive il Gobbo di Notre Dame... Racconta che cosa? Un tipo di vita che scompare. Cioè sta raccontando quella vita che viene cancellata dal nuovo sviluppo della città. No? E racconta che cosa ancora? Racconta l'alterità culturale, la corte dei miracoli, un altro modo di vivere, di parlare, di relazionarsi, no? Che vive all'interno della società come un corpo a parte. Era la vita popolare. È una cosa che i francesi hanno avuto per lungo tempo, questa alterità. Prima accennavamo a Céline. Céline è uno che lavora sull'argot, e da dove arriva l'argot? Era una lingua non comprensibile, la lingua ufficiale addirittura, arriva dalla lingua del no? Allora ecco che Victor Hugo, questo qui è un quadro a casa sua, quando è tornato ad abitare a Parigi, no? Era talmente innamorato di Medioevo che guardate come ha conciato la sua casa, insomma. Oltre che una persona abbastanza curiosa, qui la stanza delle cineserie, altro aspetto che in quegli anni prende piede, poi vedremo un po' meglio. Questo va bene, un personaggio di passaggio. La sua scrivania, lavorava molto, e poi guardate qua, da bruciare. No? Perché è importante Victor Hugo? Non è solo uno scrittore. Victor Hugo sarà uno dei personaggi di fatto, seppure di lato, cardine, chiave per la Comune di Parigi. Cosa succede? Victor Hugo, repubblicano, quando sale al potere Napoleone III, poi vi dirò due cosette, no? È quello che inventa proprio la dizione Napoleone il Piccolo, che hai tirato fuori tu prima, no? In realtà Napoleone III non è Napoleone il Piccolo, perché se si va a guardare ha governato più a lungo di Napoleone I, cioè dello zio, ha modificato di più la vita del paese e della città di quanto non abbia fatto Napoleone I, no? Ecco, per cui probabilmente non è così piccolo, anche se veniva ridicolizzato soprattutto da Victor Hugo. Che l'aveva. Victor Hugo, quando sale al potere Napoleone III, dice: qui è finita ogni possibilità democratica, io me ne vado in esilio e non rientrerò fino a quando non cade il regime di Napoleone III. E dove va in esilio? Va in un'isoletta nella Manica, che oggi è un paradiso fiscale, che è un'isoletta indipendente, però sotto protettorato della regina d'Inghilterra. Si stabilisce in quest'isola dove lavora, ma quest'isola diventa anche un luogo dove arrivano in pratica rivoluzionari in fuga da mezza Europa, soprattutto polacchi, perché c'è una rivolta che fallisce in Polonia, no? Che arrivano e vengono in parte ospitati da lui, in parte insediano delle attività lì, e tra le attività si insediano anche delle stamperie che stampano giornali che poi clandestinamente vengono magari mandati in Francia, no? Quindi Victor Hugo diventa come se fosse un governo ombra, come se fosse, no? Il rappresentante dell'opposizione a Napoleone III, perché quando Napoleone III prende il potere per un po' proprio di opposizione non se ne parla, poi vedremo. Tranne questa opposizione morale, questo testa a testa tra lo scrittore e il potere, no? Che è uno dei tratti che hanno caratterizzato anche la cultura francese anche in anni recenti. Secondo aspetto: la città ha bisogno di infrastrutture. Parigi, che è una città che diventa grande, che si allarga, che supera 1 milione di abitanti, è la città più grande dell'Europa continentale. Credo che la seconda in Europa continentale fosse Napoli, giusto per capire quali erano le metropoli importanti. C'è un problema di governabilità dentro la città, perché la città ha bisogno di luce. Già Luigi XIV aveva cercato con un'ordinanza di dire ai parigini: devono piazzare delle candele alle finestre la sera e illuminare le strade, perché sennò i delinquenti ci tagliano la gola, pensi svolta l'angolo, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che a partire dagli anni 30 si diffonde l'illuminazione a gas, no? 1829, illuminazione a gas, scompare una figura professionale, che erano quelli che accendevano le lanterne nelle strade. Nel 1830 abbiamo già 9.000 lampade a gas e 3.000 lampade a olio che illuminano la città. Nel 1870 più di 23.000 lampioni. Cioè, per la prima volta la città diventa completamente vivibile di notte. È una rivoluzione totale nei costumi di vita, no? Per fare questa cosa ovviamente c'è bisogno di scavare per mettere le tubature del gas, no? Poi il gas arriverà nelle case, ma soprattutto, come dicevo prima, nasce un nuovo comportamento che noi oggi conosciamo bene, quella che oggi chiamiamo movida. Cioè, si può andare la sera, chi ha i soldi ha la possibilità, può andare a farsi l'aperitivo alla sera. Guardate tutti i lampioni accesi, che risalto hanno, no? Perché è una novità, no? La vita notturna, no? E Parigi viene battezzata la città delle luci, la Ville Lumière, la città più bella del mondo, dicono i parigini tuttora, no? Ecco, qui vediamo dei lavori, questi qui in realtà sono successivi per la costruzione di infrastrutture, sono sempre tubature del gas, poi dopo le tubature del gas arriverà la metropolitana, poi arriva le fogne, perché Parigi è una città senza fogne. Parigi è anche una città senza acquedotto all'epoca, quando si insedia Napoleone III, cioè dove l'acquedotto è molto limitato, no? Ed è una città che prende acqua soprattutto dalla Senna. Secondo elemento importante nella trasformazione della vita, il treno. Il treno, il treno che inizia anche questo negli anni 30, dovrebbe essere nel 37, credo, la stazione di Saint-Lazare, fatemi leggere l'appunto, perché sì, 37, stazione che, come vedremo se abbiamo tempo, diventerà fondamentale anche per gli artisti, per l'impressionismo, eccetera, perché c'è tutta una storia che si lega a questa stazione. Ma il treno che cosa permette? Permette anche lì di spostarsi fuori dalla città, permette di vivere, soprattutto in una città come Parigi, dei chiamiamoli dei weekend vacanza, no? Dove vai nelle campagne, no? Fai le scampagnate, vai in locali, poi vedremo meglio, dove si può ballare, si può mangiare, si può bere, no? E permette anche lo sviluppo di una nuova forma artistica che di lì a qualche anno diventerà imperante, che è la pittura en plein air, cioè la pittura all'aperto che esce dagli studi. Non a caso ho messo questo treno, che penso che molti di voi avranno riconosciuto. Questo treno in realtà è un treno del 1895 ed è un treno dei fratelli Lumière, no? È il famoso treno, no? L'arrivo del treno. Allora, uno degli elementi, non a caso, al cinema si arriva solo nel 1895, perché è l'arrivo naturale di tutta una serie di ricerche, di tendenze, di invenzioni, di costruzioni, chiamatele come volete, che vanno verso lo sviluppo di un'industria dell'entertainment, perché tutta la città va in quella direzione, costruzione di spettacolo, costruzione di consumi, costruzione, chiamiamola, di piacere della vita, no? Questa qui è la Gare Saint-Lazare oggi, qui è come ce la mette Monet, insomma. E questo è uno dei punti di arrivo del treno che parte dalla Gare Saint-Lazare, no? Che è appunto fuori in campagna, lungo la Senna, e dove fioriscono questi locali, fioriranno questi... Questo qui è successivo alla Comune, in realtà, questo. E questo è come... Ah, è troncato, perché? Ecco, e questo è come oggi quel locale, vedete? Cioè, è uno di questi luoghi di scampagnate. Che... Tre punti sono molto importanti e instaurano lo stile di vita che ancora oggi abbiamo. Centri commerciali, Passage, Expo. No, questi sono tre novità di quegli anni. Centri commerciali, qui vediamo quello che vediamo lì in alto, dovrebbe essere au bon marché, al buon mercato. Ah no, qui dopo c'è l'Expo. Vedete che sono delle gallerie dove sui diversi piani sono esposti prevalentemente, diciamo che il prodotto trainante nei centri commerciali è la stoffa, no? Soprattutto a Parigi sono le stoffe e la moda, uno dei settori trainanti. Qual è l'invenzione? In cosa consiste l'invenzione del centro commerciale? Consiste nel fatto che i prodotti sono esibiti, i prezzi sono esposti, il lavoro dei commessi è ottimizzato, perché il commesso lavora giusto quando hai qualcosa da chiedergli o quando devi farti il bigliettino per andare a pagare in cassa, no? e tu hai l'illusione di muoverti libero in questo spazio. Quindi è uno dei modi che non solo alimenta i consumi da un lato, ma dall'altro permette la concentrazione delle attività commerciali. Se vi ricordate le fotografie che abbiamo visto all'inizio della vecchia Parigi medievale, tutti i negozietti piccoli, bui, eccetera, adesso arrivano questi, arrivano i giganti. No? In Italia arriveranno con un certo ritardo, sarà la Rinascente uno dei primi a Milano. A Napoli ci sono dei grandi magazzini che nascono prima, perché Napoli forse in Italia in quegli anni la città più vicina al modo di vivere di Parigi. Tant'è che c'avevano le chanteuse, c'avevano il caffè Chantin, no? Cioè, i napoletani parlano un po' parigino in quegli anni. Un altro aspetto importantissimo proprio per la costruzione di un immaginario, e a questo ci ha dedicato molti sforzi Walter Benjamin, poi magari vedremo un po' meglio, sono i passage. Cosa sono i passage? Avete in mente la Galleria Vittorio Emanuele qui a Milano? No, ecco, la Galleria Vittorio Emanuele è un passage in grande. I passage nascono perché ci sono magari due palazzi, due condomini, che hanno uno spazio comune al centro di passaggio, quindi passage, e decidono di rivestire di vetro, avevo messo le diapositive col vetro, ecco, questo qui ad esempio è una cupolotta di vetro al centro di un passage, questo è un passage oggi, no? Con i negozi, questa architettura di ferro e vetro è un'architettura che di fatto nasce durante la prima rivoluzione francese, cioè alla fine del Settecento, quindi un'architettura leggera, sospesa, dove la luce proveniente dall'alto va a illuminare le vetrine che diventano proprio il luogo dove i prodotti sono esposti come se fossero delle opere d'arte o addirittura come se fossero delle opere sacre, no? Benjamin parla di aura che viene, che si concentra su questi prodotti esposti sotto quelle luci in quei luoghi. Sono luoghi belli, luoghi magici, luoghi che nascono per attivare il desiderio, desiderio di consumo. Cioè, mano a mano si sta disegnando proprio uno stile di vita che è quello appunto nel quale siamo immersi. L'altro aspetto, dicevo, sono le expo. Questi qui sono alcune immagini dell'Expo del 67 a Parigi. Cioè, in pratica nell'Expo vengono costruiti, viene costruito questo con architettura, anche questa non definitiva, insomma con architettura provvisoria, viene costruito un grande anello, no? Che all'interno contiene la galleria delle esposizioni, ma tutto attorno ci sono vengono costruiti proprio dei villaggi che raccontano i vari paesi del mondo, le tradizioni dei vari paesi del mondo. Qui sono degli appunti di una cosa che avevo scritto tempo fa, ma ve la leggo perché è più rapido leggerlo, insomma, non salto i pezzi. Chandomar, i giardini davanti alla vecchia scuola militare, attualmente ai piedi della Tour Eiffel, ospitano la grande Expo universale dell'arte e dell'industria. Un gigantesco edificio ovale in ferro e mattoni, lungo quasi mezzo chilometro, costruito in meno di 2 anni, da 26.000 operai, circondato da pagode, minareti, fattorie norvegesi, sberusse, yurte siberiane. Il Messico partecipa con la ricostruzione di un tempio precolombiano. Paesaggi e giardini si ispirano a 12 paesi sparsi, a 32 paesi scusate, sparsi nel mondo intero, mentre si afferma l'idea di un'architettura di consumo che realizza edilizie da smontare e demolire dopo il grande evento. Un acquario gigante, più di 800 pesci, attira l'attenzione. Chi vuole osservare l'esposizione dall'alto con una visione aerea può salire su un pallone aerostatico. 9 anni prima Nadar aveva scattato le prime fotografie aeree della storia, ispirando l'immaginazione di Jules Verne prima di impegnarsi nel progetto di un'aviazione, eccetera, eccetera. L'esposizione universale dell'arte e dell'industria del 67 accelera l'autoriconoscimento di nuove forme artistiche. Giovani artisti rifiutati dall'esposizione ufficiale iniziano a riconoscersi e diventeranno la prima avanguardia moderna. 7 anni dopo, proprio nello studio di Nadar, verrà attribuito anche un nome, impressionisti. 52.200 espositori, tra gli 11 e i 15 milioni di visitatori, L'Expo supera ogni previsione. All'interno del padiglione centrale una trionfale mostra racconta l'evoluzione delle tecniche del lavoro, da utensili presentati come preistorici fino alle ultime invenzioni del progresso industriale. Un nuovo metallo attira l'attenzione, l'alluminio. Compare per la prima volta l'alluminio. Un altrettanto nuovo fucile viene armato con cartucce a percussione centrale. Per la prima volta viene presentato un nuovo sistema di costruzione che cambierà l'evoluzione dell'edilizia, il cemento armato. Tutto è nuovo, come il modello di ascensore idraulico o lo scafandro portato dalla Marina americana. C'è un inno ufficiale dell'evento, composto da Gioacchino Rossini. 400.000 biglietti d'ingresso gratuiti sono distribuiti tra gli operai francesi. Un'accoglienza con più di 30.000 posti letto messi a disposizione dei lavoratori che desiderano visitare l'esposizione. Quindi qui capiamo che tra il pubblico che consuma questi prodotti viene considerata anche la classe operaia. Ok? Sono grandi esposizioni che celebrano il progresso, celebrano... Pensiamo a noi oggi, quando ci raccontano l'intelligenza artificiale, ci danno siamo sempre in questa storia qui, no? Però c'è l'esigenza di far vedere agli operai, o almeno ad alcuni operai, questo tipo di sviluppo. Perché è considerata istruzione della classe operaia. È considerato coinvolgimento, anche ideologico, anche politico, degli interessi del capitalismo, che in questo modo... Ma non gli va completamente bene, perché nel 62, all'Expo di Londra, qualche anno prima, proprio perché gli operai, alcuni operai francesi erano andati gratis a visitare l'Expo di Londra, hanno avuto l'occasione di incontrare gli operai inglesi, che erano un po' più avanti come sviluppo industriale, avevano già i sindacati abbastanza organizzati, no? E dall'incontro cosa nasce? Inizia a nascere l'idea dell'internazionale. Cioè, attorno all'Expo, attorno a questa grande celebrazione del capitalismo, guarda caso, alcuni operai strappano questo, no? La possibilità di essere liberi, indipendenti e di organizzarsi nelle loro lotte. Dimmi come sto con il tempo, perché sai che sto... Devi cercare... Gli argomenti sono tanti, un po' questo. Ecco, qui vediamo un altro aspetto dell'Expo, appunto... l'aspetto legato all'esotico, ecco, e poi la grande vita che si svolge sul boulevard, il caffè, la moda è, dicevo prima, un settore trainante per Parigi, ma soprattutto è il primo prodotto a rapida obsolescenza. Cioè, la moda prende i piedi, l'idea della moda in senso moderno, anche questa attorno alla finire del Settecento. L'idea è che tu sei costretto a stare alla moda, quindi devi cambiare i vestiti se vuoi stare alla moda. Quindi è un prodotto che si autoalimenta, perché una delle esigenze proprio dello sviluppo capitalistico è proprio questa: come faccio a mantenere alti i consumi, no? Se un prodotto dura in eterno? E una delle grandi invenzioni è proprio la moda. E questa è un'altra delle implicazioni, che è la vita, chiamiamola, meno ufficiale. Questa cartina qui rappresenta la densità di concentrazione di prostitute nelle zone di Parigi. Più è nera, più sono. Questa è precedente, siamo negli anni 30, è sotto i portici del Palazzo Reale, no? È una scena abbastanza evidente. Questa invece, verso la fine dell'Ottocento, è evidentemente una casa di tolleranza di lusso. Questa qui è una fotografia invece del 1920, dove vediamo una persona abbastanza rovinata dalla vita che ha fatto, no? Che conduce e che evidentemente non se la passa molto bene sul piano economico. Sopra è la pubblicità di una casa di appuntamenti. Allora, ci sono diverse forme di prostituzione, diciamo così, che prendono piede a Parigi in quegli anni. Una è quella legata al lavoro in senso professionale. Quindi si lavora in una casa di tolleranza. Un'altra forma è quella che punta di più verso una vita, diciamo così, da mantenuta. No? Ad esempio un personaggio che è rimasto famoso, la signora delle camelie, la Traviata di Verdi, che si riferisce ad una persona realmente esistita, morta giovanissima. No? Una storia abbastanza... Un'altra forma è quella delle lorette. Le lorette sono in pratica delle ragazze, ecco, guardate qua, questa è una fotografia scattata in una via vicino all'Opéra, in Boulevard des Italiens, dove si vede questa infilata, questa strada, in fondo il pistolotto, che sarà uno dei luoghi importanti della comune, perché quella chiesa lì viene costruita proprio per nascondere la traccia del comune, perché l'insurrezione è partita proprio dove è stata costruita quella chiesa. Però, diciamo, in primo piano, qui abbiamo un'altra chiesa, che è la chiesa di Santa Maria di Loreto. Cosa succede? Che ci sono ragazze che passeggiano attorno alla chiesa di Santa Maria di Loreto e che si vendono. Ed ecco che nasce un nome, cioè non stanno nelle case di tolleranza, diventano le lorette, no? Un'altra forma, diciamo così, di vendita più, è quella delle grisette. Chi sono le grisette? Grisette perché si vestono di grigio. E chi è che si veste di grigio? Sono le sarte. La sartoria è molto sviluppata a Parigi, proprio come attività industriale. Sono queste sartine che la sera, finito di lavorare, magari non si vendono neppure, giusto l'idea che incontrano il ragazzo ricco, benestante, che se le porta a mangiare al ristorante. Ma era una pratica abbastanza accettata nei quartieri popolari, non nei ceti operai. La chiamavano pratica del quinto, cioè potevi arrivare ad avere un quinto del tuo stipendio attraverso questo tipo di pratica. Ovviamente, prima vi parlavo di Victor Hugo, è uno degli aspetti che, ad esempio, anche Victor Hugo considera molto. Se pensate all'inizio dei Miserabili, c'è questa storia incredibile, cioè di questi studenti che hanno delle amanti, decidono di fare all'improvviso una sorpresa, e quella è la sorpresa, che le piantano in asso e se ne scappano. E una di loro resta incinta. E di lì nasce tutta la tragedia che darà vita al romanzo. Si racconta, la leggenda vuole, che quando è morto Victor Hugo, il suo corpo abbia avuto addirittura un picchetto d'onore fatto da lavoratrici sessuali, e che molte hanno esercitato gratis in onore di Victor Hugo, perché dicevano che era l'uomo che gli aveva restituito una dignità umana. Questi aspetti diventeranno importanti, cioè dopo si parlerà di Louise Michel, è una molto attiva su questo fronte. Un'altra considerazione è quella dell'infanzia. Parigi, nei quartieri popolari, ovviamente ci sono molti scugnizi, diremmo noi, per dirla, no? Ma dobbiamo pensare anche che i bambini lavorano, no? E dobbiamo pensare anche, questi qui invece sono i bambini della comune, cioè sono bambini che parteciperanno alla rivoluzione. In questo caso è un bambino che carica i cannoni, lì sono altri bambini, questi qui sono bambini che aiutano a costruire barricate, questi qui sono bambini che si impegnano nella chiamiamola Croce Rossa dei comunardi. E questo è il carcere, dopo la fine del comune, dove i bambini vengono imprigionati. Quelli che vedete avvicinandosi si nota sono proprio bambini. Un altro elemento centrale di questa modificazione di Parigi è la costruzione dell'opera, il teatro. Il teatro non è solo un luogo di divertimento, in particolare l'Opéra Garnier, qui vediamo un tempio. L'Opéra Garnier è un luogo dove si svolgono le politiche economiche e matrimoniali. Cioè, io sono un banchiere, ho una figlia in età da matrimonio, la porto all'Opéra Garnier, dove magari l'industriale con un figlio in età da matrimonio porta il figlio all'Opéra Garnier. E lì si crea, come diceva Totò, il patatrac, no? È una delle forme che vengono utilizzate per far crescere, concentrare i capitali e il matrimonio. Quindi ecco che si crea una Parigi ben pensante, no? La facciata. Comunque il matrimonio, tutto, no? Un retrobottega, come dicono i francesi, che è quello che vi descrivevo prima, insomma, con migliaia di ragazze che contribuirà a creare l'immaginario della Parigi, non so quanti film avremo visto. Ecco, qui è sempre la costruzione dell'Opéra, qui la piazza dell'Opéra che viene. Altro aspetto è la diffusione delle industrie. Però le industrie, ecco, vediamola qui sulla cartina, ecco, questa è forse la cosa più importante. Due o tre cose su Parigi. Qui c'è il centro, e dove c'è Notre Dame, Palazzo di Giustizia, il primo palazzo reale, di qui alla zona delle Tuileries. Quartiere Latino, vediamo un dedalo di strade molto strette. Quartiere Latino ha mantenuto una sua dimensione popolare addirittura fino agli anni 60 del Novecento, infatti è una... Quelli che vediamo più scuri sono i violoni, più gialli sono i violoni, la parte più scura sono i nuovi quartieri inglobati nella città. Qui ad esempio notiamo che è un quartiere con poche strade, era ancora campagna, lì siamo sotto Place d'Italie ed è un quartiere attualmente di palazzoni grigi e di immigrazione prevalentemente orientale. Ma le fabbriche che erano che magari disseminate lungo questa ai bordi della città, gradualmente vengono spostate soprattutto in questa zona. Qui, vedete, c'è accennato un canale, no? Questo canale qui scompare, diventa sotterraneo e ricompare là in alto e va a collegarsi a dei laghetti che si collegano con delle linee d'acqua esterne alla città. È un canale costruito da Napoleone I per portare acqua a Parigi. Attorno a quel canale si svilupperà tutta la Parigi operaia, no? Cioè, fabbriche, cioè, quando vediamo i film degli anni 30, quelli con Jean Gabin, no? Hotel du Nord, quei film, sono tutti ambientati in quella zona lì. Che cosa succede? Qui, vicino a Place della Bastille, c'è il vecchio ghetto ebraico, il vecchio ghetto, che poi è diventato in anni recenti una zona più o meno gay, una zona... Poco oltre c'era la zona del Tempio, cosiddetta perché era l'insediamento templare un tempo, no? Che è il luogo dove nel quartiere del Tempio è stato anche imprigionato Luigi XVI durante la prima rivoluzione. Ma nel quartiere del Tempio succede che si insedia una sede importante per quello che succederà durante la Comune di Parigi. C'è la sede dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, no? Che fornirà tutto, diciamo, l'hardware per creare la... andando su in alto, verso i bacini della Villette, dove il canale ricompare, vengono insediate le fabbriche del gas, vengono insediate, no? E di lato, no? Abbiamo Montmartre, altra zona di periferia esterna alla città che viene inglobata, che diventa uno dei centri importanti. E le grandi battaglie della Comune, cioè proprio dove c'è il massacro vero e proprio, dopo che i versagliesi entreranno, ed entreranno da qui, cioè entreranno dal lato dove ci sono i quartieri, i nuovi quartieri ricchi, il grosso dei combattimenti sono in quest'area qui e in quell'area là. Gli ultimi combattimenti sono qua, al cimitero per la Chaise, che è qua, forse, o qua, adesso non... No? Cioè, saranno sul lato orientale. Altro aspetto, come si instaura Napoleone III? Anche questo è istruttivo. Dovremmo riflettere, perché io sono convinto che molto spesso, ad esempio, noi oggi abbiamo dei problemi notevoli in questo paese, no? E molto spesso diciamo, ci sono i fascisti, è vero, abbiamo i fascisti che governano. No? Però più diciamo ci sono i fascisti, meno veniamo capiti. Perché le persone si aspettano di vedere i fascisti in camicia nera, e poi non li vedono. No? Si aspettano di vedere quello che parla al balcone, e poi vedono una donna. No? Quindi dicono, è la sinistra che è paranoica, adesso si sta diffondendo questa... Se leggete i giornali, no? Cioè, sembra che... In realtà il modello è questo, secondo me. Napoleone III, dopo aver tentato un colpo di Stato nel 1936, nel 1948, in piena rivoluzione, lancia un proclama per l'estinzione della povertà, per l'estinzione del pauperismo, cioè più populista di così, no? Lui ha un progetto per eliminare la povertà in Francia. E comunque resta abbastanza appartato dalla scena politica. Gradualmente, nel 1948 c'è un problema. C'è un problema perché nel 1948 anche la rivoluzione non gioca molto bene le sue carte. Ad esempio i blanchisti, che sono una componente importante anche durante puntano immediatamente a una sorta di conflitto armato, no? Quindi che strategia politica pensano nel 1948? Dicono c'è molta disoccupazione. Facciamo in modo che passino le fabbriche nazionali, cioè luoghi dove la gente va a lavorare e viene pagata e magari fa dei lavori, un po' come il reddito di cittadinanza, ecco, un misto, no? Perché la gente deve pur mangiare. Però se costruiamo le fabbriche nazionali e questi vengono assunti lì, cioè la classe si aggrega, e se la classe si aggrega noi partiamo da lì, no? Barricate, scontro armato, vinciamo, no? E instauriamo la dittatura del proletariato. Questo era il desiderio. Cadono in una trappola, ovviamente, no? Partono troppo presto, vengono massacrati. Il contraccolpo è che diciamo, la parte reazionaria, no? Si ricompatta, no? Si spaventa per questo tentativo insurrezionale. Di fatto, quando Napoleone III prende il potere, lo prende come presidente legittimo. Poi che cosa fa? A colpi di maggioranza, a colpi di elezioni, di plebisciti, lui si fa incoronare imperatore. No? È graduale, cioè dice io ho la maggioranza, no? Io voglio estinguere il populismo, voglio il contatto diretto con il mio popolo, non voglio nessuno in mezzo. A che cosa serve questo Parlamento? Referendum, volete avere a che fare con me o volete avere a che fare con i soliti politici? E vince, no? Referendum, volete che io sia l'imperatore di tutti i francesi? E gradualmente instaura uno stato autoritario a colpi di maggioranza. In quegli anni lì i plebisciti funzionano molto come forma di insediamento, anche da noi, Savoia ne sanno qualcosa. Peccato gli va male, perché alla fine di tutto questo percorso c'è una guerra. Entra in guerra con la Prussia, in mezzo ovviamente ci sono più di 20 anni di potere, no? Quasi assoluto, entra in guerra con la Prussia, perdono, i francesi, che erano considerati l'esercito continentale più importante, perdono con i prussiani. Perdono con i prussiani, i tedeschi, che insediano l'impero germanico, e l'incoronazione dove decidono di farla? A Versailles. Cioè, l'impero germanico si insedia con un'incoronazione a Versailles, c'è proprio uno schiaffo morale, no, nei confronti totale. Ma l'imperatore è abdicato, prigioniero dei tedeschi, malato, di lì a poco morirà. I tedeschi hanno bisogno che qualcuno firmi la pace, l'armistizio, la fine della guerra con loro. O meglio, che qualcuno si addossi le spese di guerra, no? E che qualcuno si addossi la cessione di territorio alla Germania. Quindi cosa dicono i tedeschi? Voi francesi dovete darvi un governo. E dovete darvi un governo passando immediatamente a legittime elezioni, di modo che nessuno avrà niente da ridire. Però sono vietati i comizi, sono vietati gli assembramenti, sono vietati, no? Quindi in condizioni piuttosto vengono indette delle elezioni molto in modo molto rapido, e questo è il risultato. Diciamo, le sinistre sono queste qui, rosse, un po' rosine, un po' gialle. Tutte le sinistre, fino al centro-sinistra, sinistre prevalentemente repubblicane. Tutto ciò che vediamo dal verde in poi, destre. Destre che sono di tre tipi, sono destre monarchiche, ci sono i monarchici bonapartisti, cioè che vogliono un Bonaparte, sono quelli verdi, ci sono i monarchici legittimisti che vogliono uno della famiglia reale, e ci sono i monarchici orleanisti che vogliono un ramo parallelo, però tutti monarchici, no? Questo Parlamento ufficiale sarà quello che esprimerà appunto il governo che finirà per schierarsi contro la Comune. Queste ve le salto, erano delle frasi di Marx sul 48, che però era... Passerei... Non vorrei... Per quanto tempo ho parlato? Qualcuno aveva tenuto... Eh? Un'ora? Allora, della Comune parlo dopo, non so se vi basta questa premessa o... No, rapidamente vi dico due cose, in sostanza. Cosa succede? Ovviamente, i ceti ricchi, i monarchici, vogliono firmare la pace. Cioè, quelli che hanno voluto la guerra di colpo vogliono la pace. I parigini quelli rimasti a Parigi perché i ricchi, grazie al treno, grazie a tutto il discorso di prima, se ne sono andati in campagna quando è nato l'assedio di Parigi. L'assedio di Parigi che ha ridotto alla fame completa, cioè hanno mangiato tutto, dai topi ai coccodrilli, agli elefanti, tutto il giardino zoologico, cioè non c'era più da mangiare. No? Bombardamenti anche con bombe al fosforo, no? I primi bombardamenti con bombe al fosforo, cioè una situazione drammatica. Però dentro Parigi era rimasto il popolo, quello che non aveva la possibilità di andare via. E che cosa dice il popolo? E questa è la cosa strana. Cioè, quelli che hanno voluto la guerra, cioè i ricchi, hanno la maggioranza del Parlamento e vogliono la pace. Il popolo, che a Parigi ha votato prevalentemente a sinistra comunque, perché ha espresso tra i parlamentari di Parigi c'è Garibaldi, che non si è neppure presentato alle elezioni ma che viene eletto, no? Anche se poi il Parlamento lo rifiuta perché dicono tu sei un immigrato, non puoi sedere in Parlamento, no? E Victor Hugo è un altro eletto a Parigi, no? Il popolo dice no, noi vogliamo continuare la guerra, non vogliamo cedere le armi. Che razza di storia è questa? È molto semplice, perché firmando la pace, a chi avrebbero addossato i debiti di guerra? Li avrebbero addossati al popolo. Cioè, un popolo già alla fame si sarebbe trovato a dover pagare i debiti di guerra alla Germania. Mentre i ceti ricchi, che sono anche di proprietari terrieri, fondamentalmente, non vogliono che l'esercito tedesco stazioni sui loro territori. Ecco che c'è una sorta di ribaltamento, ma non è un ribaltamento ideale, che quelli sono diventati pacifisti, questi che, no? C'è questo tipo di situazione. Ed è su questo meccanismo che esploderà proprio la Comune di Parigi. Adesso... Ecco, siccome siamo andati un po' lunghi, alteriamo l'ordine di successione. Quindi, se siete d'accordo, facciamo la cantata del coro, ceniamo e dopo, essendo anche i film più brevi riprendiamo un pezzo di discorso. Se Selva è d'accordo, se invece deve andare via prima, facciamo il pezzo su Louis Michel adesso. Vieni allora. Vieni. Sì, ma mi dispiace, figurati. Tanto si capisce lo stesso. Cioè... Sarò breve, promesso. Non, perché qua abbiamo tirato lunghi. No, io la mantengo. Però dopo un figlio che mi aspetta non posso far troppo tardi, abbiate pazienza. Allora, abbiamo tutta una ricostruzione fantastica di tutto quello che è successo a Parigi fino al 1871 e ci tenevo a dire un paio di cose su quello che poi realmente è successo durante la Comune, perché la Comune sappiamo che in realtà è appunto il popolo, come stava dicendo appunto chi mi precedeva, si oppone alla consegna dei cannoni a Montmartre. Questo qui è il momento clou del scoppio della Comune. Il governo appunto vuole riprendere possesso delle armi, ma il popolo si rifiuta di restituire i cannoni. E da lì dà avvio a questo momento rivoluzionario veramente fondamentale, fondativo. È fondativo per tutto quello che verrà dopo, per tutte le rivoluzioni, per tutti i percorsi di autonomia, di auto-emancipazione che si sono sviluppati dopo, e tutto questo appunto avviene a partire dal rifiuto di restituire i cannoni. E da lì avvio questo momento rivoluzionario fondamentale in cui in questi due mesi, perché la Comune durerà 71 giorni, dopodiché verrà repressa nel sangue in una maniera veramente terribile, con tantissimi morti, fucilati, esiliati, questa settimana di sangue, no? La Semaine Sanglante, che so che dopo il coro... ci renderà un po' viva anche questa emozione della settimana di sangue, però insomma questo disastro, ma nel periodo che la Comune opera, ci sono una serie di cambiamenti pazzeschi, vengono portate avanti una serie di proposte di di cambiamenti sociali, politici, alcuni verranno realmente attuati, altri non avranno il tempo di essere realmente concretizzati, perché appunto i giorni che la Comune dura sono 71-72, insomma. Ma in questi giorni, appunto prima di questa repressione fortissima che ricordiamo farà più di 30.000 morti solo nella settimana di sangue, più tutto quello che verrà dopo, ma ci lascia un'eredità politica, un'eredità ideale, un'eredità di metodi, di mezzi da attuare veramente forte. Tra questi ve ne vorrei ricordare alcuni, poi dopo parlerò della Louise Michel, però visto che non è stato detto ci tengo insomma a ricordare perché ha senso parlare oggi della Comune. Ha senso parlare oggi della Comune perché la Comune innanzitutto è la prima rivoluzione antiautoritaria della storia. Perché prima della Comune non c'è stato mai un movimento antiautoritario, antistatalista che è riuscito in modo così incisivo a portare avanti un cambiamento. E quali sono questi cambiamenti? C'è l'abolizione dell'esercito permanente. Durante la Comune verrà abolito l'esercito permanente. E verrà instaurata una forma di democrazia diretta, sappiamo bene, una democrazia radicale che formerà poi da modello a tutta una serie di esperienze che nei secoli e che ancora oggi si ispirano a queste pratiche. E verranno diffuse le assemblee popolari di quartiere, che sono una metodologia appunto democratica, radicale, orizzontale, fortemente innovativa e che è fortemente innovativa ancora oggi. Vi saranno i delegati che saranno eletti solo con mandato revocabile e solo con dei mandati chiari, imperativi, quindi la possibilità di revocare i delegati e la possibilità di delegarli su precise specifiche scelte, e anche questo appunto una radicalità veramente profonda che ispirerà poi anche tutta una serie di pensatrici e pensatori politici. Vi sarà la separazione dalla Chiesa, perché fino alla Comune, fino al 1871, la Chiesa e lo Stato in Francia comunque hanno un legame fortissimo, invece in quei mesi si separerà dalla Chiesa dallo Stato e si instaureranno le scuole laiche, ad esempio, finalmente delle scuole senza un'influenza ecclesiastica. Vi sarà il blocco degli sfratti, quindi un tentativo di risolvere la questione abitativa che, come abbiamo visto appunto in quelle grandi trasformazioni di Parigi di quegli anni, è molto sentita, e il blocco degli sfratti è una risposta immediata, perché un aspetto importante della Comune di Parigi che parte dalla necessità di rispondere a dei bisogni reali, cioè non è un movimento che nasce da un punto di vista teorico e si sviluppa, ma nasce proprio da quelli che sono i bisogni della popolazione, da quelli che sono in quel momento le reali necessità, e cerca di dargli una risposta immediata, e questo è l'aspetto forte probabilmente di quell'esperienza. Per cui il blocco degli sfratti, un ripensamento totale del mondo del lavoro, per cui l'instaurazione di cooperative autogestite, l'abolizione del lavoro notturno, per 72 giorni verrà abolito il lavoro notturno per tutte le categorie lavorative, e la scelta di dare la cittadinanza a tutti i residenti nella città di Parigi, per cui non più una discriminazione, no? Legata a documenti, legata a provenienze, ma chiunque in quel momento si trova sul suolo della città di Parigi gli viene riconosciuta la cittadinanza. E ci rendiamo conto che insomma oggi sarebbe come dire, difficile da attuare in questa fase storica purtroppo, ma che darebbe una risposta a una serie di problemi sicuramente. Dicevo, l'istruzione laica, un'istruzione oltre che laica, un'istruzione pubblica gratuita per tutte e per tutti, senza distinzione di genere. È la prima volta, poi dopo verrà realizzato in quel periodo, poi bisognerà aspettare altri 100 anni perché la scuola francese, ma in generale in Europa, vi sia una scuola laica e una scuola aperta ai bambini e alle bambine, senza distinzioni e in classi miste. L'apertura al popolo di biblioteche, di musei, di teatri e di tutte le esperienze culturali, insomma, che non sono più riservate a un'elite, ma a cui chiunque può accedere. il riconoscimento delle unioni fuori dal matrimonio. Nei 72 giorni non ci sarà più appunto il vincolo matrimoniale come conosciuto ancora oggi, ma che allora aveva chiaramente un peso ancora maggiore, ma abbia un riconoscimento di qualsiasi tipo di unione. E poi l'aspetto dell'emancipazione femminile, e qui arriviamo poi alla Louise Michel, ovvero la Comune di Parigi è il primo momento in cui le donne prendono realmente voce, in cui le donne hanno un impegno politico, pubblico, collettivo, sociale, e in cui rivendicano tutta una serie di diritti e di pratiche, tra cui l'equiparazione salariale, la rivendicazione del diritto di voto. Viene sancita la possibilità dell'aborto, che era chiaramente vietato, vengono diffuse pratiche anticoncezionali, che all'epoca era chiaramente sicuramente anche per opera della Chiesa impossibile fare, tutta una serie di rivendicazioni di diritti sessuali anche per le prostitute che venivano ricordate prima. Ma al di là di questo vi è anche tutta una presa di coscienza, una presa di una rivendicazione appunto di agibilità politica delle donne che rivendicano appunto e partecipano in prima persona. Sulle barricate vediamo delle donne, Louise Michel sarà una di queste donne sulle barricate. Perché parlare di Louise Michel a questo punto? Vado veloce. Perché Louise Michel è sicuramente il simbolo della Comune di Parigi, no? Di solito si pensa alla Comune di Parigi e si pensa a Louise Michel. Soprattutto in Francia è notissima, ma anche in Italia c'è una fermata della metropolitana a Parigi, insomma è super riconosciuta, ma è riconosciuta un po' come santino, no? Come icona, c'è l'immagine di Louise Michel vestita di nero. In realtà Louise Michel non è solo il simbolo della Comune di Parigi, cosa che tra l'altro lei... rifiutava parecchio nelle sue memorie, racconta del disagio anche di questa situazione, che insomma suo malgrado è diventata un simbolo. Ma Louise Michel è significativa per l'impatto radicale che ha sia nel momento della Comune di Parigi, ma sia negli anni successivi. Innanzitutto per le riflessioni che fa delle riflessioni chiaramente molto profonde, intense, riflessioni personali e politiche insieme, sia nelle sue memorie che in tutta una serie di scritti. Poi perché è impegnata quando tornerà dalla Comune di Parigi. Allora, Louise Michel partecipa in prima persona alla Comune di Parigi. Lei è una maestra in quel periodo e lavora nelle scuole con i bambini. Ma il pomeriggio invece è attiva nei vari comitati, comitati di difesa, ed è in prima fila sulle barricate. È una delle prime donne, tra l'altro, ad avere le armi a Parigi. Gli si chiede: ma dove ha imparato a sparare? Lei dice: io sono andata apposta nei tirassegni del Luna Park, dove era l'unico posto che come donna mi consentisse di esercitarmi. Perché comunque c'era una resistenza innegabile anche all'interno del... di coloro che la Comune di Parigi la portavano avanti. Però lei è in prima fila e rivendica questa sua attività, ma soprattutto il suo momento in cui viene un po' alla ribalta, possiamo dire, insomma, in cui tutti iniziano a parlare di Louise Michel, tra cui ad esempio Victor Hugo, di cui si parlava prima, gli dedicherà questa poesia Viro Maior, cioè una donna più forte di ogni uomo, lasciamo perdere poi, insomma... oggi non si direbbe, mi auguro, però l'intento è un intento chiaramente encomiastico di questa figura, che quando viene arrestata in seguito alla Comune di Parigi, perché comunque ormai è già piuttosto celebre e quindi non viene fucilata ma viene arrestata, in realtà a dire la verità viene arrestata la madre, a cui lei era molto legata, per cui lei sceglie di consegnarsi per far liberare la madre. Ecco, lei al momento del processo, quando gli viene data la possibilità di prendere parola, assume questo atteggiamento di forte coerenza politica e rivendicando di essere insomma giudicata come tutti gli altri componenti della Comune, come tutti coloro che hanno preso parte alla Comune, quindi chiede di essere anche lei condannata a morte come tutti i comunardi. E dice: anche se io sono una donna, io rivendico appunto la mia appartenenza politica, la mia attività, e pretendo di essere giudicata come i miei compagni e le mie compagne. E chiaramente questo sarà poi ripreso moltissimo, questo discorso, vi invito a leggerlo tra l'altro perché veramente anche l'impatto emotivo molto forte, ma non verrà condannata a morte, verrà esiliata in Nuova Caledonia insieme a moltissimi altri comunardi, e Nuova Caledonia è questa piccola isola del Pacifico, questa isola sotto protettorato francese, e dove rimarrà per una decina d'anni abbondanti, rifiutando ogni volta la grazia, nel senso che ci sono tutta una serie di personalità che a Parigi si adoperano per far sì che lei abbia la grazia, tra cui Victor Hugo, ma lei rifiuta in quanto aspetta che vi sia un'amnistia generale, nel senso dice io tornerò a Parigi quando tutti avranno possibilità di tornare a Parigi, quindi è una sua continua rivendicazione anche collettiva, di azione collettiva, non è un'azione individuale la sua, ci tiene a questo aspetto sociale collettivo che caratterizzava la Comune di Parigi e che caratterizzerà poi il suo impegno successivo. E in Nuova Caledonia tra l'altro non farà una vita come molti dei comunardi rifugiati, cioè rifugiati esiliati in Nuova Caledonia, ma in Nuova Caledonia fraternizzerà con i Kanaki, che è la popolazione locale, e parteciperà con loro alle loro lotte di emancipazione e di indipendenza contro i francesi. Una, tra l'altro, praticamente l'unica dei comunardi presenti, gli altri non prendono parte a questa esperienza, che è un'esperienza forte che durerà nei decenni, ecco. Questo per dire che la sua è una visione profondamente internazionalista, quella di Louise Michel, è una visione sicuramente femminista, adesso non abbiamo il tempo di soffermarsi bene, però è una visione in cui denuncia le oppressioni da qualsiasi punto arrivino, nel senso denuncia l'oppressione economica, denuncia l'oppressione sessuale, denuncia l'oppressione politica, denuncia la pressione razziale, denuncia anche Louise Michel sarà anche una tra le prime a anticipare quello che oggi viene chiamato l'antispecismo politico, perché lei rivendica il fatto che la sua opposizione contro il potere, contro i potenti, la sua rivolta contro i potenti abbia preso avvio quando ha notato il dolore, la sofferenza del mondo animale. Lei in particolare ricorda questo episodio di lei su questa barca che viene portata via appunto dalla Francia in esilio e vede questo albatros, questo grande uccello legato dai marinai e quindi sofferente in questa situazione, e lei lì capisce, dice nelle sue memorie, se non altro dice che da lì ha capito insomma qual è la sua origine del suo impegno che porterà avanti poi per tutta la vita contro i potenti, contro l'oppressione, contro lo sfruttamento. E tornerà poi finalmente a Parigi quando tornano tutti i comunardi nel 90 e lì inizia tutta un'attività politica intensa, farà più di 700 comizi sia in Francia, ma andrà anche significativo ricordarlo, andrà anche in Algeria, e sappiamo che l'Algeria appunto anche lei ha tutta una storia, no, di lotta per la propria emancipazione. E sarà guiderà il famoso assalto ai forni del 93 quando appunto il popolo di Parigi la primo momento forte di rivolta dopo la Comune, che non ha soffocato quindi quelli che erano gli istinti, i desideri insomma e le necessità più che altro del popolo, e questa grande manifestazione delle Invalide dove ci sarà l'assalto ai forni, la presa del pane insomma, e quindi la rivendicazione anche lì del soddisfacimento dei bisogni della popolazione, la volontà di rispondere in modo chiaro e subito a quelli che sono i bisogni, se la gente ha fame che la gente prendesse il pane. Ed è significativo perché la stessa frase la dirà anche Emma Goldman negli Stati Uniti in una grandissima manifestazione, un grandissimo comizio che terrà, in seguito al quale verrà arrestato. Anche lei, altra donna anarchica, femminista, con cui si incontreranno tra l'altro a Parigi queste due figure, anche lei rivendicherà il diritto per il popolo di prendere il pane se ha fame. Quindi, cosa dire per chiudere? Un altro aspetto, ecco, ci terrei a ricordare prima di chiudere del tutto, è che Louis Michel subirà una serie di attentati individuali poi quando tornerà in Francia, con un seguito tra l'altro molto grande, verrà accolta quando torna in stazione, si parla di centinaia di migliaia di persone che l'attendono in stazione al suo arrivo, proprio perché ormai nel frattempo è diventata sia un simbolo sia per il messaggio probabilmente che porta. Lei che nel frattempo appunto è diventata, si è più strutturata politicamente, possiamo dire, si definisce anarchica e anarchica rimarrà fino alla sua morte. Ecco, sia lei che altre figure di donne impegnate politicamente in quegli anni, tra cui penso a Voltairine de Cleyre negli Stati Uniti pochi anni dopo, entrambe insieme a molte altre subiranno degli attentati personali, ovvero saranno vittime di attentati da parte di uomini che cercheranno di appunto di eliminarle, perché questo impegno probabilmente politico messo insieme a una vita anche da un punto di vista privato, personale, ma strettamente coerente, questo modello che rappresentano queste figure fa paura, faceva paura allora e probabilmente fa paura anche oggi. Per cui Louis Michel sarà vittima di questo attentato da cui riesce a salvarsi e anzi si impegnerà per la liberazione del suo attentatore, riconoscendolo vittima di un sistema di oppressione e quindi in qualche modo come una non colpevole personalmente, ma frutto di un sistema marcio, si direbbe oggi. Niente, direi che chiudiamo perché il tempo... Se c'è il coro, adesso so che ci farà un... Ho avuto il piacere già di sentirlo l'altra volta e ci rende proprio l'idea di quello che è stata la Comune di Parigi e merita di essere sentito. Ah, ho portato un libretto su Louise se qualcuno interessa.